Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è stata la serata, grande serata di Cristiano Ronaldo. Stasera dovrebbe essere quella di Gomez, Müller, Özil, Schweinsteiger, insomma dei tedeschi sempre più favoriti per la vittoria finale di questi europei, ma saranno in tanti, forse saremo in tanti stasera a tifare invece per Davide contro Golia, per tifare o comunque a simpatizzare per Samaras, no? Che stasera non dico che non può scendere in campo Antonis Samaras, cioè il nuovo premier incaricato greco, ma Georgos, 28 anni, omonimo, con questo look molto mediterraneo con cui si presenta in campo, mancando il capitano Karagounis potrebbe essere oggetto di simpatia. Molto si sta giocando evidentemente tra spread, rigore, insomma tra questi concetti, perché giocandosi Germania-Grecia è ovvio ed è inevitabile. Se la mettiamo sul calcistico, finora l'unico rigore di tutti gli europei l'ha avuto proprio la Grecia alla prima partita contro la Polonia, l'ha anche fallito, l'ha sbagliato Karagounis il capitano, che stasera non ci sarà per squalifica. Se parliamo di spread nel valore dei giocatori, vi anticipo un dato che poi approfondiremo più tardi con Marco Bellinazzo, e cioè il valore totale degli 11 tedeschi che stasera vanno in campo, il valore di mercato è di 313 milioni di euro, il valore degli 11 greci è di 50 milioni, quindi siamo in un rapporto di 1 a 6, chissà se poi il rapporto anche tra le economie reali. Ci sono addirittura dichiarazioni non di voto ma di tifo. Romano Prodi ha appena detto: io ho sempre avuto simpatia per la Germania, ma stasera sono proprio costretto a tifare Grecia. È diventata una cosa un po' come Davide contro Golia. I tedeschi sono saggi e forti, ma hanno costretto psicologicamente anche persone come me a dire: speriamo che almeno nel calcio ci sia una giustizia. Anche il presidente Napolitano stamane si è persino un po' commosso a Londra 2012 alla cerimonia inaugurale, no, non dell'Olimpiade, ma insomma della presentazione delle delegazioni. Con questa bandiera siete portatori della nazione italiana, ha detto, e poi si è proiettato sull'esito, non ancora sull'esito, ma insomma su quanto sta accadendo agli europei da parte italiana, e ha ricordato di aver seguito ad Anzica la nazionale. Lui vide Italia-Spagna, quel pareggio che è valso una vittoria, ha commentato stamane, e poi mi sono visto in televisione quei due magnifici gol che hanno fatto onore all'Italia, si riferisce a quelli contro, l'Irlanda. È evidente che sta montando l'attesa per Italia-Inghilterra, e quindi insomma di argomenti di carattere europeo davvero non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ieri sera Cristiano Ronaldo davvero molto più protagonista di quanto fosse mai accaduto sinora con la maglia del Portogallo. Che Ronaldo sia un fuoriclasse non c'è nessun dubbio, che lo avesse già dimostrato ampiamente nei club di appartenenza, prima nel Manchester, adesso da tempo ormai nel Real Madrid, questo non era in discussione, non sempre era riuscito a essere altrettanto trascinatore con la maglia della nazionale, anzi spesso era stata la squadra a trascinare lui. Ieri sera, anche se la vittoria alla fine è stata striminzita, soltanto 1-0, e se il gol che ha firmato è stato forse l'occasione nitidissima, però insomma la conclusione meno brillante forse, no? Tra quelle che aveva tentato fino a lì, nel senso che ha segnato un gol di testa di pura potenza, ma insomma la girata del primo tempo in un centimetro quadrato di terra in una frazione di secondo è stato un capolavoro veramente da giocatore di quelli che possono stare nella storia del calcio. Però insomma comunque ha rappresentato in ogni caso un capolavoro. Noi chi sentiamo adesso? Potremmo sentire Abate, che sta andando verso la riconferma per la partita di domenica sera con l'Inghilterra dopo aver debuttato con l'Irlanda. Sentiamo. Questo non lo so, credo che a questi livelli, in queste competizioni, è difficile stabilire chi sia favorito. È normale che loro, con il passaggio del turno, hanno grande entusiasmo. Ieri è entrato un gran attaccante come Rune, però credo che dalla nostra parte avremo il grande gruppo come sempre che sa mettere il cosiddetto cuore oltre l'ostacolo. Venga con noi, scrive Dani da Genova, a tifare ogni sabato per Samaras, perché noi siamo i tifosi italiani del Celtic. È un po', dice, è un po' cocciuto questo giocatore, ma in fondo gli vogliamo bene. Bene, benissimo, chissà che stasera non combini più di quanto non ha combinato sinora, che in effetti non è stato tanto. Sto parlando del giocatore e non del Premier. I tedeschi erano favoriti anche in Champions, scrive Maurizio da Loreto. Sì, è vero, ed erano anche superiori al Chelsea sulla carta, ma non erano così superiori come sono invece stasera come nazionale rispetto ai greci. Dunque, lo spread dei 22 stasera in campo, perlomeno i titolari. Marco Bellinazzo che mi ha raggiunto, buongiorno Marco. Ciao Gigi, buongiorno. Evidentemente è contagioso perché Franco Piantanita stamane si è scatenato, si è calcolato il valore di tutti questi 22 ed è arrivato a 313 milioni di euro di valore dei tedeschi, dai 30 milioni di Neuer, il portiere, ai 38 di Schweinsteiger, ai 35 di Müller, ai 32 di Özil, ai 40 di Gomez, eccetera, eccetera, e contro i 50 milioni dei greci. Samaras, tra l'altro, nonostante questo cognome che improvvisamente è diventato di primissimo livello, è quotato 3 milioni e non è uno dei più cari. Il top è Papadopoulos con 9 milioni, Papastatopoulos con 8 e segue il gruppo. Marco, vai sullo spread. Beh, oltre a questo che riguarda gli 11 in campo, quelli che si affronteranno per il quarto di finale, c'è anche un altro spread che è significativo ed è quello tra il valore del campionato tedesco e la Bundesliga e quello del campionato greco. Anche qui, certo, abbiamo dimensioni che ci dimostrano come questa sia una delle più classiche sfide da Davide contro Golia. Il fatturato della Germania è il secondo in Europa, dietro la Premier League. La Bundesliga comunque ha circa 1,8 miliardi di euro all'anno prodotto dai club, come in base alle varie voci di entrate, mentre il campionato ellenico si ferma a 210 milioni. È sintomatico come appunto ci sia una differenza poi sostanziale anche nella oculatezza della gestione dei club, se proprio vogliamo, no, metterla su questo piano, visto che è al centro questo argomento del dibattito politico ed economico internazionale, in quanto in quel famoso rapporto tra costi e salari, dominato dall'eccellenza e dalla oculatezza tedesca, per cui su 1,7 miliardi di fatturato i tedeschi spendono 925 milioni in salari, pari al 53%, sì. I greci rispondono con 170 milioni di stipendi pagati su un fatturato di 210, andiamo a oltre l'80%, quindi questo è un guaio, una cattiva gestione. Certo. E visto che parliamo di spread, noi siamo al 75% e ricordiamolo in questo rapporto, quindi prima di arrivare ai livelli greci, non solo nel calcio, bisogna invertire la rotta. Certo. E molte squadre in Italia, le top squadre, per necessità o per opportunità, mi sembra che questa via l'abbiano ormai intrapresa con una certa decisione, anche se i tifosi non sono tanto contenti. E con troppa disinvoltura, ma secondo me la disinvoltura in Italia è davvero tanta nella gestione calcistica. Marco, io ho letto nei giorni scorsi, e non so se sia un dato esattissimo, non ho gli strumenti per verificarlo, ma insomma, se il numero non è proprio 103, mettiamo che sia 97, ma resterebbe comunque sempre una pazzia. Ho letto che il Genoa ha la proprietà, o controlla, o ha la comproprietà, che invece mi pare non esista più, ma insomma, il Genoa controlla 103 giocatori. Allora, domando che a un esperto, che significa? Significa che ha fatto tanti piccoli investimenti nel corso degli anni preziosi e ha creato questo parco giocatori che tenta di gestire nel migliore dei modi, sperando che prima o poi tra questi 100 e passa giocatori, sono circa 106 o 107 ormai diventati, e questo è il numero, escano fuori 11-20 giocatori che gli permettano poi di portare il Genoa ai massimi livelli. Non c'è riuscito perché è sotto gli occhi di tutti quella che è stata la girandola dei nomi del Genoa, che ha quasi completamente cambiato la rosa ad ogni stagione. E forse anche ad ogni mercato di riparazione a gennaio, o quasi. Questo ha prodotto appunto l'esistenza di questo parco giocatori, di questa rosa spropositata, Molti giocatori sono in prestito ad altre squadre, ci sono molte compartecipazioni e non con proprietà, perché le comproprietà non esistono, al di là del gergo che si usa. Se poi dopo chiariamo perché è sbagliato chiamarle comproprietà, perché ha effetti anche sul tesseramento e sul fatto che certi giocatori debbano possano giocare in una squadra o nell'altra. In ogni caso, il Genova ha creato appunto questo immenso parco giocatori che ora dovrà in qualche modo gestire, e molti poi li passa al Milan. È una delle caratteristiche degli ultimi mercati. Questa è un'altra domanda curiosa che hai anticipato. Io nel frattempo volevo così togliermi una piccolissima curiosità da profano. 106-107 giocatori sono 10 squadre abbondanti di calcio, ma sono soprattutto 4 rose abbondanti. Allora, ripeto, proprio da profano e da popolino, se vuoi, Preziosi e il Genoa sono dei benefattori che in un momento di crisi di posti di lavoro si preoccupano di crearne, oppure la sua convenienza, come la chiamano i genovesi, ha un'altra chiave di lettura? Beh, sai, io non credo che li abbia tutti a libro paga il Genova. Quando vengono dati in prestito, solitamente sono le squadre che utilizzano poi le prestazioni sportive ad accollarsi anche, sì, anche l'ingaggio. Lo stesso vale in qualche modo per le compartecipazioni organizzate in maniera tale che il giocatore poi sia a disposizione dell'altra squadra, che li tessera, che è al 100%. Quindi da questo punto di vista non è un benefattore di calciatori potenzialmente disoccupati. È singolare come appunto nel corso del tempo, per errori evidentemente di gestione, io credo che si siano accumulati questi calciatori per sbagli, per sviste, qualche volta per la convinzione di fare un investimento proficuo. Ora il punto è come il Genoa potrà o dovrà liberarsi, perché è chiaro che prima o poi le compartecipazioni finiscono, quindi si deve decidere questi giocatori dove vanno. In tempi di crisi pagare uno stipendio in più è pesante anche per le società di calcio, e quindi dovrà il Genova piazzarli o far scadere i contratti, in quel caso accollandosi gli stipendi. Quindi diciamo che la situazione economica in prospettiva non è per i rossoblù delle più rose. Senti, la domanda successiva è la seguente: perché, se il Milan deve far finta di vendere un grande giocatore, si rivolge al Paris Saint Germain, e se invece lo deve realmente acquistare, lo acquista soltanto attraverso il Genoa? Che sono curioso. Beh, allora, ti potrei rispondere citando un dato di bilancio, che è l'ultimo, che riguarda la capogruppo, la Fininvest, che l'anno scorso aveva prodotto utili per 160 milioni, mentre quest'anno si è fermata per il 2011 a 7,5 milioni. Sì. 7,5 milioni corrisponde circa a un terzo del costo di Ibrahimovic, tra ingaggio e imposte. Certo. Questo evidentemente taglia la testa al toro, cioè la Fininvest non potrà più finanziare il Milan. Quindi si devono tentare altre strade. Una è quella di autofinanziarsi sul mercato vendendo Thiago Silva, ma abbiamo visto che per tattica, per strategia o per un atto di eroismo del presidente Berlusconi, Thiago Silva è rimasto a Milano. Certo. Quindi si dovranno trovare altre formule. Una formula che evidentemente va di moda sull'asse Milano-Genova è quella di far sì che il Genova possa acquistare dei giocatori e trasferirli poi con delle formule che vanno dal prestito alla compartecipazione, al giocatore per conto terzi, alle rate spalmate su 3 anni, vadano al Milan. In questo modo il Milan, diciamo, magari facendo uscire altri calciatori o rinunciando ai contratti importanti come quelli relativi per esempio a Seedorf, a Inzaghi, possa abbassare il monte ingaggi. Certo. E quindi migliorare la propria situazione finanziaria, perché il problema fondamentale per il Milan, come per altre squadre, è che non producendo utili, non avendo più la possibilità di ricapitalizzare, non può fare altro che indebitarsi con le banche. Le banche non sono più tanto disposte a concedere prestiti. Certo. E quindi evidentemente, piuttosto che rischiare la paralisi, si fanno affari con Preziosi. Un'altra domanda riguarda invece la Juventus e il fair play finanziario, e cioè qualche giorno fa abbiamo detto che con il modo in cui si sta muovendo il Paris Saint-Germain, e a quel punto per la verità sembrava concluso anche l'affare Thiago Silva dopo la Venezia e dopo il resto, in cui si muove il City, in cui si muove qualche società in Europa, destavano perplessità in rapporto all'entrata in vigore del fair play finanziario. Ora, Che la Juventus sia stata colpita da improvviso benessere sul piano tecnico e dei risultati non c'è discussione, ma mi sembra però colpita da improvviso benessere anche sul piano finanziario. L'impatto della vittoria dello scudetto in termini economici, io l'avevo calcolato in un articolo di qualche mese fa, era di circa 50 milioni, sì. Considerando tutta una serie di voci, il ritorno in Champions, la possibilità di migliorare i contratti con gli sponsor, l'impatto del merchandising sicuramente positivo, con il circolo virtuoso che tu crei rigiocando in Europa e rigiocando ad altri livelli. Dunque la Juve, nonostante avesse avuto una perdita di 90 e andando verso una perdita di 60-50 quest'anno, contava però su questo tesoretto cash di soldi che derivano anche dall'aumento di capitale, sì. e li ha investiti in questa primissima parte della sessione di mercato. È stata l'unica squadra in realtà che ha fatto dei movimenti, anche se spalmandoli su 2-3 anni, ha investito circa 50 milioni la Juventus. Che quindi è quello. Quindi questi 50 milioni in qualche modo sono stati collocati. Ora c'è il problema del top player. Come si compra il top player? Ma non c'è anche il problema del pregresso a questo punto, cioè di quei 90 e fischi? Beh, sai, i 90 sono esattamente prima dell'entrata in vigore del settore finanziario, quindi in qualche modo vanno fuori. I 60 che arrivano possono essere ridotti da eventuali utili dell'anno prossimo, e comunque nel biennio, sì, fino al 2013-14 si possono fare 45 milioni di rosso, sì, quindi bene o male puoi rientrare in quei parametri. Le prospettive della Juventus sono abbastanza rosee, nel senso la Juventus sta ponendo le basi per dominare nei prossimi 3-4 anni in Italia, data la concorrenza, e dunque non spaventa la dirigenza juventina quello che è l'immediato pregresso. Poteva andare male, potevi non vincere lo scudetto, potevi non qualificarti in Champions, e allora è così che avrebbe pesato quei meno 60 milioni, perché si sarebbero aggiunti ad altre perdite. Invece in questo modo potranno essere colmate, se non proprio ripianate nell'immediato, però perlomeno far rientrare la Juve nei parametri. Ecco, se proprio dobbiamo indicare una squadra che in questo momento è messa bene nell'ottica finanziaria, indubbiamente va indicata la Juve. Arriverei invece allo spread, no, perché c'è quello tra Germania e Grecia, e su questo non c'è dubbio, ed è di strettissima attualità per la sfida di stasera, ma ce n'è anche uno tra Italia e Inghilterra. Diciamo che ce n'è uno che si è andato progressivamente e inesorabilmente allargando tra Premier League e Serie A. La Premier League, se vuoi, anche per una naturale vocazione internazionale del campionato inglese, è sempre stato quello che ha ottenuto i maggiori ricavi, però qualche anno fa non era tanta la differenza con la Serie A, eravamo lì, insomma la Serie A insidiava questo primato molto da vicino. Pensa che nel 96-97 la differenza tra gli incassi della Premier League e la Serie A era del 20%, cioè la Premier League incassava 685 milioni e la Serie A 551. Non c'era grossa differenza. Mm-hmm. Nella stagione 99-2000 questa differenza più o meno era analoga, in quanto la Premier League intanto ha aumentato gli incassi a 1,2 miliardi, ma noi eravamo a 954, sì, milioni. Andando invece nel corso degli anni 2000, questa differenza, questo spread, si è, come dicevo prima, inesorabilmente allargato a danno dell'Italia, perché è arrivato addirittura al 47% nella stagione 2003-2004, in quanto la Premier ha iniziato a volare negli incassi e si è avvicinata a 2 miliardi, a 1 miliardo e 9 di euro, e noi abbiamo appena in quell'anno superato la soglia di 1 miliardo. Questo 40%, cioè vuol dire che vale, appunto, se il campionato italiano vale 6, la Premier vale 10, più o meno è rimasto stabile in questi anni, e alla fine dell'ultima stagione è rimasto appunto uno spread del 37%, lievemente sceso, ma rimaniamo quindi con distanze molto forti, perché la Premier è arrivata a 2 miliardi e mezzo di incassi e noi siamo rimasti più o meno a 1,6 miliardi, tolto le plusvalenze. Intanto ci ha superato la Spagna, ci ha superato la Germania, tra un po' ci supererà anche la Francia, e soprattutto la Premier League avrà un incremento ulteriore, supererà sicuramente i 3 miliardi di euro, perché ha appena firmato la Premier un contratto con la televisione di Murdoch, che anche se è una quota di minoranza ma in realtà di controllo, la BSkyB, Dal 2013, pensa Gigi, 2014, la Premier League incasserà per i diritti TV interni, cioè solo quelli all'interno della Gran Bretagna, circa 1 miliardo di sterline all'anno per 3 anni. Sui 3 anni fanno oltre 3,5 miliardi. Però. A questa voce si deve aggiungere una voce che è molto consistente per la Premier, cioè quella dei diritti venduti all'estero, che rappresentavano fino all'anno scorso un terzo dei diritti interni. Siccome si discuterà nelle prossime settimane anche questo contratto, se dovesse rimanere questa percentuale, oltre, diciamo, a questi 3,5 miliardi per il triennio, ci sarà un altro miliardo e mezzo per i diritti TV legati all'estero, fanno circa 5 miliardi soltanto di diritti TV in 3 anni. Capisci che poi altro che spread rispetto al nostro campionato. Ma d'altra parte poi tutto ha una spiegazione, tutto si tiene. La maggior rappresentanza di questi finalisti degli europei, delle 8 squadre, è di giocatori che militano in Premier League, e quindi insomma, è evidente. Se poi fai una battaglia di retroguardia, che è quella italiana, che comporta per esempio litigare su dove giocare la Supercoppa italiana, si è finalmente deciso di giocarla a Pechino, e se presenti a Pechino un giorno all'anno, ti potrà portare in termini di ritorni d'immagine, ritorni commerciali, penso insomma appunto un solo giorno contro la presenza invece che di un anno, certo, intero della Premier League fatta di partite trasmesse in Cina in maniera assolutamente, certo, puntuale, fatta di tournée strutturate delle squadre inglesi in Asia, in particolare nel territorio cinese, e questo ti dà un vantaggio enorme da qui ai prossimi 10 anni. Di radicamento sul territorio, di gusti, abitudini e sarà, identificazioni, eccetera. Io credo quasi impossibile riuscire a colmare questo, certo, gap. Mario è in attesa da Bergamo da un bel po' e le chiedo scusa. Dica, Mario. Buongiorno, io non credevo che Ronaldo era così forte, pensavo che giocando con delle squadre molto blasonate, ma vedendo con la sua nazionale, devo dire che è una persona umile e molto molto, no, molto adesso, forte. Poi il primo... Mario, una persona umile no, adesso esagerumanen, diciamo noi piemontesi, e non esageriamo. Come fa a dire che Ronaldo è una persona umile? Se c'è, dica, come fa a dire che è una persona umile? Beh, umile sul fatto che non lo vedo quella gran persona che in campo si sbatte con i compagni o si mette a gridare e dire parolacce. Per me questo è umile. Poi dopo è forte perché ieri sera quel tiro che ha preso il primo palo. C'è un concetto di umiltà che va interpretato. Cristiano Ronaldo è in campo, è più un gradasso che un umile, su questo non c'è dubbio. Lo è sempre stato, lo è con i rivali, lo è un pochino anche con i compagni. Ieri sera, nella prima fase, quando le cose non andavano, su un appoggio sbagliato, peraltro in spaccata da un avversario, ha fatto una scenata non elegantissima proprio in favore di telecamera. Ma questo è un altro discorso. Ronaldo è un grande campione e... Credo che il punto di svolta sia stata la partita scorsa del Portogallo, perché lui fino a quel momento e quasi per la sua intera carriera finora in nazionale era stato, ripeto, non dico un rimorchio, ma comunque non certamente una locomotiva che invece è. Dalla scorsa partita, ieri sera in particolare, è diventato un trascinatore, e se tu su una squadra buona, a parer mio, come il Portogallo, che ha una bella organizzazione e che ha alcune altre individualità, alcune di talento tipo Nani e non solo, Moutinho e altre di sostanza, se tu su una squadra del genere ci metti un fuoriclasse convinto come Ronaldo, poi puoi andare molto lontano. Se ci sono ascoltatori che vogliono intervenire sugli argomenti di Marco Mellinazza, naturalmente sono i benvenuti. Se ripartiamo con gli europei, io tra un po' ti congedo, Marco, perché evidentemente non perché tu non sia all'altezza, ma per non farti sorbire questa... Carlo Potenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Il mio riferimento agli europei è di riflesso. Ho sentito fino ad ora parlare di povertà del calcio italiano in soldi. Io invece la riflessione che facevo, ma già da qualche tempo, la faccio, che probabilmente forse sono le due cose sono strettamente legate, ad una povertà tecnica del calcio italiano. ho 47 anni, non sono vecchio, però la mia memoria mi porta a ricordare che in precedenti edizioni di mondiali europei i giornalisti attaccavano i vari commissari tecnici sul perché Berzot lasciasse a casa gente come Pruzzo e Beccalossi, del perché Baggio non era convocato, del perché giocasse Mazzoli e non Rivera, del perché Causio no Bruno Conti e no Claudio Sala. Adesso l'altra sera in televisione sento dire che in questa nazionale manca uno come destro, e sinceramente io probabilmente destro diventerà il nuovo Cristiano Ronaldo, oppure no, ma non c'è magari bisogno. L'Italia vincerà gli europei e sarò terribilmente smentito, e me lo auguro, però probabilmente una voce della povertà del calcio italiano, oltre dal punto di vista economico e anche perché tecnicamente... Sì, sì, ma il suo concetto, ormai... grazie Carlo, è molto chiaro, è in buona parte condivisibile. Secondo me lei ha sbagliato l'esempio, ho l'impressione, perché di destro nei prossimi anni sentiremo parlare come. Prima di dare la linea a un amico di Verona, Marco, ti domando, la scaletta di oggi l'abbiamo esaurita, che ho perso un po' il filo, o ci rimane qualcosa? Sì, io mi allaccerei invece al discorso di destro della povertà, perché anche qui negli anni scorsi eravamo a discutere di grandi affari, no, nel calcio italiano, e da alcuni giorni che non si parla altro delle trattative di destro e di Verratti, che per carità sono in prospettiva grandi, grandi giocatori, e lo speriamo tutti che si realizzino, però queste trattative qualche anno fa avrebbero avuto uno spazio in qualche trafiletto e marginale, invece sono le trattative centrali, e di campioni, ahimè, ne vedremo poco. Ma non è un segno di, invece di presa di coscienza, non è un segno di maturità questo, di aver capito che tanto vale, visto che di quattrini non ce n'è più, tanto vale puntare sui giovani di qualità di casa nostra? Io mi augurerei che ci fosse una coscienza, dire, in questa dimensione del calciomercato italiano, c'è una consapevolezza, un'intelligenza superiore. Ti piacerebbe? Ecco, mi piacerebbe molto, c'è un'intelligenza tale da far individuare appunto nei vivai l'unica strada per risollevarsi, perché l'investimento finanziario nei vivai è quello che costa meno e che ti può rendere di più, a differenza per esempio dei tanto decantati stati di proprietà che costano tanto ma non so quanto rendimento ti possano dare. E quindi io mi auguro che se voi per necessità, se voi ci arriviamo per obbligo finanziario, si arrivi appunto a investire di più nei vivai e a trattare i giovani italiani, e poi magari il calcio italiano potrebbe effettivamente diventare finalmente un calcio di esportazione. Per tanti anni abbiamo importato campioni, forse sarebbe il momento di cominciare a esportarli e a utilizzare le risorse che arrivano magari per migliorare le strutture, per migliorare i vivai. Certo, oltre che a bilanciare i pagamenti di questo settore. Allora, grazie a Marco Bellinazzo, che salutiamo. Sembra ieri. 22 giugno 1988. Alla semifinale di Stoccarda, l'Italia di Vicini arriva con belle speranze, forte di un girone eliminatorio brillante e del fatto di aver già battuto l'Unione Sovietica a febbraio in amichevole a Bari per 4-1. Ma agli europei è un'altra storia. La formazione di Lobanovskij esercita una supremazia evidente, anche se gli azzurri riescono a costruire qualche occasione. Nella ripresa, però, Zenga subisce un 1-2 micidiale nel giro di due minuti, tra il 60° e il 62°, con le reti di Litovchenko e Protasov. In finale ci va quindi l'Unione Sovietica, per la quarta volta nella sua storia. Ecco, questa era l'Unione Sovietica, no? A differenza di oggi, che è la Russia. La quale Russia? Mi viene in mente, a proposito della Grecia, perché è vero che la Grecia stasera, insomma, non ha scampo, perlomeno sulla carta non ha scampo con la Germania, che è nettamente più forte. Però la Grecia in una partita da vincere o andarsene ha già fatto fuori la Russia, esatto, meno di una settimana fa, e quindi insomma, prima di darli davvero per spacciati, aspettiamo. Alberto Verona, buondì. Dottor Garanzini, io sono in partenza per Kiev, mi sto recando all'aeroporto di Venezia e direi sono molto fiducioso, sono stato anche ad Anzica a vedere Italia-Spagna, credo di aver visto la più bella partita sotto il profilo tecnico-tattico di tutti i campionati europei. Sono d'accordo. E ritengo che se l'Italia andrà in campo con la stessa disciplina tattica e magari con un Balotelli in maggior condizione, potremo sicuramente anche vincere contro l'Inghilterra. Spero di trovare tanti italiani, finora ne ho trovati un po' pochini, mentre le città che ho visto sono sempre invase da turisti sportivi di altri supporter. Spero che invece questa volta gli italiani mi facciano compagnia. Alberto, io glielo auguro, ma insomma, di greci non ce n'è proprio, no? Di tifosi greci o quasi, e di italiani ce n'è pochini. E questo, no, cerchiamo di non fare troppi collegamenti, ma insomma più o meno abbiamo un'idea di cosa può significare. E lei ha detto bene che è stata la partita più bella finora dal punto di vista proprio di spessore tecnico e tattico, quella inaugurale per l'Italia, cioè Spagna-Italia. Lei spera che l'Italia possa ripetere quella partita. Sarà difficile, sa perché? Perché contro la Spagna è più facile giocare, perché ti dà tutti i punti di riferimento del mondo, nel senso che la danza la menano loro. Con l'Inghilterra non è proprio così, anzi con questa Inghilterra, perché l'Inghilterra una volta sarebbe stata in maniera molto diversa rispetto al calcio spagnolo, ma sarebbe stata la stessa cosa. Questa non è l'Inghilterra, questa è un catenaccione britannico ma con derivazioni anche italiane, e quindi non è una partita facile da interpretare. Franco, Padova, buongiorno. Buongiorno signor Garantini. Volevo intervenire sul discorso che facevate con Bellinato dello spread per la differenza tra Inghilterra e Italia, però voglio dire, poi loro i loro club li vendono ai malesiani, agli arabi, eccetera, quindi non sono più proprietari delle loro squadre. Beh, non tutti, stanno diventando delle succursali di questi mega miliardari che fanno quello che vogliono alla fine. Sì, in un paio di casi è vero, non vale per tutto il calcio inglese, per fortuna. No, ma poi le squadre che alla fine vincono sono sempre quelle due o tre, sì, sì. Come un po' in Italia dove ci sono più soldi, le squadre vincono, io sono juventino e fortunatamente quest'anno abbiamo vinto noi, ma fino a qualche anno fa dove c'erano più soldi era l'Inter, e l'Inter investiva e vinceva. Certo. Piuttosto che vendere a questa gente, io dico è meglio tenersi un calcio magari un po' più ridotto, un po' più tranquillo, però più nostrano, insomma, diciamo. È molto saggio quello che lei dice, io lo condivido in pieno. Grazie Franco. L'agenzia di viaggio ufficiale che gestisce il viaggio volo più biglietto, biglietto da partita e rientro in giornata, costa 860 euro per Kiev, e non ci sono compagnie low cost che raggiungono l'Ucraina, quindi questa è una risposta ad Alberto prima da Verona, che beato lui stava andando in aeroporto a Venezia per imbarcarsi per Kiev. Diciamo che oggi un giochino del genere, che fino a pochi anni fa era talmente gettonato che noi vedevamo in occasione di europei, di mondiali, di qualsiasi, no, appuntamento di grande richiamo, vedevamo queste grandi tribune macchiarsi d'azzurro, adesso le vediamo un po' meno macchiate d'azzurro, e questa è una delle spiegazioni. Alberto, Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie. Senta, io ho una perplessità da tifoso juventino, ma ricomprare la comproprietà di un giocatore come Giovinco a 11 milioni di euro dopo che è stato venduto a 3 l'anno scorso, comprare Elia a 11 per farlo giocare 77 minuti, la regina del mercato, se è questa, le altre come sono messe? È la regina del mercato, perché in questo momento può permettersi di spendere molto e quindi di commettere anche degli errori costosi che però non pesano eccessivamente, o meglio, pesano sui bilanci ma consentono ugualmente margine. Questo significa essere regina del mercato, non significa certamente essere infallibili. L'operazione di Giovinco, sì, cioè se noi, ogni tanto io penso alla Juventus di Boniperti, se Boniperti avesse fatto una cosa del genere non si sarebbe più parlato, non si sarebbe più rivolto la parola da sé, no? per non so quanto tempo, e poi non l'avrebbe fatta se non altro per orgoglio. Ma probabilmente la verità è che non avrebbe mai lasciato andare Giovinco prima. Ma oggi ci sono i grandi manager e quindi c'è stato un salto di qualità che non le dico. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, due cose. Su Cristiano Ronaldo, forte, fortissimo, però il calcio è un gioco di squadra. E sinceramente quando sia nel Real Madrid che con la nazionale sua, quando la squadra si trova sotto sparisce, questo è un dato di fatto. E poi una cosa su Balotelli, ci vorrebbe un annetto con Carletto Mazzone, e non so se mi ha capito. Sì, l'ho capito, forse ci vorrebbe, sì, potrebbe essere Mazzone, potrebbe essere chiunque altro. Guardi che invece su Ronaldo io non sono molto Non sono molto d'accordo. Ronaldo è un giocatore, è una star moderna del calcio. Le star moderne del calcio, a differenza di quelle di una volta, non concepiscono molto il resto della squadra, no? Cioè giocano, anche perché sono bombardati da messaggi e il pallone d'oro e la cosa e l'altra, che sono contratti sempre più, cioè è gente che interpreta quasi in maniera individuale uno sport di squadra. Però detto questo, averne di Cristiano Ronaldo, e non è vero che sia così avulso o che giochi soltanto per sé, gioca con tanto egoismo, ma l'egoismo è tipico, però, e lo è sempre stato dei grandi giocatori, ma soprattutto dei grandi cannonieri. Il grande cannoniere, quando arriva a 30 metri dalla porta, comincia a sentirne il profumo, e il profumo dei compagni non lo sente più, automaticamente. Ha come un isolante, no? Olfattivo, che gli impedisce di sentire appunto l'odore dei compagni, e c'è soltanto più la porta da prendere. Mi spiace non avere più spazio, oppure sì, un istante, 30 secondi, Giacomo, Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzieri. Dica. Io volevo fare una brevissima analisi della squadra che abbiamo portato agli europei. Allora Giacomo, se è un'analisi della squadra, la facciamo diretta a me. La facciamo lunedì a cose fatte. Perché no, è facile farlo lunedì, volevo solo proprio un bit, se mi consente, 10 secondi, dica. 10 secondi, mi domando, è l'esempio di tutto quello che volevo dire, era proprio necessario portare Ciaccherini agli europei per farlo, e le domando, per farlo giocare terzino, solo questo. Grazie Matteo, grazie Giacomo, abbia pazienza, non ho davvero il tempo di rispondere. D'altra parte la sua era un'affermazione, non era una domanda. Matteo Comis in regia, Franco Piantanide in redazione, grazie a tutti, buon pomeriggio.